Alla fine di un buon pasto pesce pasta con il pesto c'è rimasto solo un posto, ma quel posto è prenotato da un dessert che va agitato e di seguito nel freezer congelato. Gusto e di limone, tra milioni di limoni abbia scelto i siciliani di natura profumati che rinfrescano i palati, alla fine vi sentite sollevati.